caro Parenzo, amico mio, no, voglio confessarti una cosa. Sono berlusconiano, sono un tifoso di Berlusconi. Ego te, ho votato. Aspetta, devo finire, non mi assolvere prima. Padre David. Padre Parenzo. Sono berlusconiano. Ho peccato grandissimamente in vita mia, avendo votato 2-3 volte per Silvio Berlusconi nella cabina elettorale. Il voto è segreto, lo so, però adesso, siccome ci sono degli ascoltatori che mi spingono a confessare, ecco, per esempio, questa è una porcheria che ha detto, perché il voto è segreto. Ruggero, mi sto confessando, stia zitto un attimo. Sta violando il confessionale, stia zitto un attimo, mi scusi. Stia zitto un attimo. Fuori dalla chiesa, mandatelo fuori. Ma mandatelo fuori dalla chiesa, mi sto confessando. La chiesa è un luogo sapere cosa fare. Ma Ruggero, ma lo mandate via dalla chiesa? Ma non è una manifestazione, ma cosa fa? Ma mi sto confessando, mi sto ignora i fondamenti del diritto pubblico. Diritto pubblico. Ma come siamo arrivati al diritto pubblico? Siamo arrivati al diritto pubblico. Ma come ci siamo arrivati al diritto pubblico? Mandatelo via, devo confessarmi. Mi dica un po', quel suo amico che è lì che chiacchiera con lei. Amichetto, sì. Si chiama Enzo per caso? No, Parenzo si chiama, no, David. Parenzo, ma non è Enzo. Ma non ha capito nessuno. Di che parliamo? Che significa Enzo? Qual è la battuta in questo caso? Non è Enzo che l'hai capita, no, tu? Par Enzo, è una vecchia protesta. Cioè? Par Enzo, me lo dicevano fin dal liceo. Par Enzo, ma invece è Davide, una puttanata mega galattica. Evidentemente, anche se è una battuta proprio normale che viene fatta spesso. Allora, padre Parenzo, ma cos'è questo rumore di fondo? Sì, non lo so, è uno che è entrato, è uno che non mi vuole far confessare. Padre Parenzo, sono molto colpevole. Lei, dimmi, non so, figliolo. Non so se lei potrà assolvermi. In vita mia, qualche volta mi sono recato nella cabina elettorale e ho fatto la X sul segno di Forza Italia. Del la PDL. Croce hai fatto, figliolo? La croce, sì, la croce. Sì. Non so se era una croce o uno sgorbio, non ricordo. Però ho fatto un segno su forse la Forza Italia, quella simbolo, sai, con la bandiera tricolore, con la scritta. No, io non frequento quei luoghi, ma prego. Ma lei non vota, padre? No, io voto, ho votato, voto. Se però vuole le dico anche che cosa, ma lei mi può assolvere per questo peccato grave che ho commesso? Io penso di sì, noi abbiamo degli ottimi rapporti anche con Palazzo Grazioli, sì. E penso che però lei giornalisticamente è inappuntabile, quindi la possiamo assolvere perché 2-3 volte ha votato questo. Ego te absolvo. No, chiuda con la formula vera. Ego te absolvo. Poi non mi ricordo, perché ego te absolvo. Ego te absolvo. Omnia. E poi non mi ricordo più. Ma Ruggero dove è finito? Non lo so, stava disturbando. Ecco, no, scusi, non volevo evocarlo. No, come Parenzo.